lasciato tracce dentro me, come quelle briciole che calpesterò mentre solo e scalzo mi dirigo verso te. Noi all'eterno potessimo davvero costruirci un'altra attività, fisica o qualsiasi cosa sia, lavoriamoci alla stessa intensità. Allegami, tutto è necessario, lo rilegherò in tempo per domani, e se nell'incompetenza sbaglierò, poi lo chiederò a te. Solo trascurarsi veramente questa inutile apatia, ho aspirato tutte quelle briciole mentre solo e scalzo mi dirigo verso te. Potessimo davvero costruirci un'altra attività, fisica o qualsiasi cosa sia, lavoriamoci alla stessa intensità. Noi all'eterno potessimo davvero costruirci un'altra attività, qualsiasi cosa sia, lavoriamoci alla stessa intensità. Noi all'eterno